Storiacce di Raffaella Calandra. Al detenuto Riina non viene negata nessuna tipo di assistenza ed è in una situazione carceraria, ma in cui viene assicurato la dignità di vita. Lo Stato vince quando fa questo, non quando manda a casa un detenuto che è ancora il capo di Cosa Nostra. Cosa significa una morte dignitosa? Esiste questo diritto anche per il più spietato e sanguinario superboss, per l'uomo che dichiarò guerra allo Stato? E poi, allargando il tema a tutti gli altri detenuti, può esistere il diritto a morire fuori dal carcere? E quanto spesso la pericolosità attuale di una persona condannata al carcere viene effettivamente valutata? Il caso Riina, ossia l'apertura della Cassazione ad un differimento della pena per il capo dei capi di Cosa Nostra, ha aperto anche questo dibattito e da qui parte questa puntata di Storiacce nei diritti dietro le sbarre. Deve essere dignitosa la carcerazione, secondo le nostre leggi e secondo la Costituzione. E io, a mio avviso, ritengo che sono adottate tutte le misure idonee per poter rendere dignitosa la carcerazione di Riina. Naturalmente questo deve essere dimostrato ai giudici che dovranno decidere, in maniera tale che si possa garantire appunto ancora il 41 bis. La pericolosità, ma assicurargli tutti i diritti, come per tutti gli altri detenuti, perché uno Stato punisce ma non infierisce, per tradurre con parole poco tecniche quello che le leggi scrivono. E quello che la Cassazione, con una sentenza che ha fatto clamore, ha voluto sancire è proprio questo, cioè che al detenuto Totò Riina, detenuto come gli altri uguale davanti alla legge, fosse comunque riconosciuto il diritto ad una morte dignitosa, il che nel concreto significa che i supremi giudici hanno ordinato alla Tribunale di Sorveglianza di Bologna di motivare meglio perché hanno respinto la richiesta di uscire dalla prigione per il pluriergastolano padrino 86enne che vive al 41 bis, cioè al carcere duro, dal gennaio del 1993. E questa sentenza, che ha sollevato un vespaio di discussioni, in realtà poggia su principi che sono sacrosanti e sanciti sia dalla Costituzione che dalla Convenzione dei diritti umani. Ma la notorietà del detenuto ha finito col prevalere su tutto il resto. Il rischio che fuori dal carcere duro possa in qualche modo riuscire comunque ad impartire ordini ha finito con l'essere, per l'uomo che mise a punto la strage di Capaci e poi quella di Via D'Amelio, l'aspetto principale. Ma non bisogna mai dimenticare quello che le leggi prevedono, per lui come per tutti gli altri detenuti, cioè che potrebbe ottenere benefici, anche l'uscita dal carcere, svelando ad esempio chi sono quelle persone importanti che lo hanno contattato prima delle stragi. E questo è il suggerimento che dai microfoni di Melog gli lancia Pietro Grasso, presidente del Senato, già procuratore nazionale antimafia e giudice all'atere del maxi processo di Palermo. Non dobbiamo dimenticare che è ancora il capo di Cosa Nostra, per le regole che noi conosciamo di Cosa Nostra, e poi che sempre la legge può dare la possibilità di interrompere questo regime del 41 bis, cioè del carcere duro, collaborando. Cioè lui potrebbe così, sempre secondo la legge dello Stato italiano, potrebbe ottenere la cessazione delle misure, così come tanti altri prima di lui, collaborando e facendoci un po' sapere chi erano queste persone importanti che lo hanno contattato prima di fare le stragi. Potremmo anche sapere tante cose che ancora purtroppo non sappiamo. Riina resta dunque per tutti ancora oggi il capo dei capi di Cosa Nostra, anche se la Suprema Corte invitava a valutare l'effettiva e attuale sua pericolosità. Lui è uno dei mille e più ergastolani che non hanno alcuna prospettiva di uscita, come sentiremo nella seconda parte di Storiacce. Rina, come probabilmente saprete, fu arrestato nel 93 nella sua villa, proprio a Palermo, dopo un blitz avvolto a sua volta da fitti misteri e divenuto anche motivo di un ulteriore processo per la mancata perquisizione del covo. Fu catturato cioè l'anno dopo l'inizio della stagione delle stragi, avviata quel 23 maggio del 92 con l'attentatuni, la strage di Capaci che, anche se pochi lo ricordano, ha in realtà un sopravvissuto, Giuseppe Costanza, l'uomo che era in macchina con Giovanni Falcone e sua moglie Francesca Morvillo, lui che era l'autista del giudice e che oggi, davanti al dibattito sull'attenuazione della pena per Riina, grida alla vergogna contro lo Stato. Uno Stato che mi ha abbandonato, come denuncia a gran voce anche nel suo libro, appunto, Stato di abbandono. Io ritengo che sia un'offesa questa che si faccia sia ai caduti che a coloro che abbiamo dato un contributo di sangue per lo Stato. Secondo me chi è stato condannato deve estinguere la sua pena. Lui non ha avuto pietà per nessuno e pensa che in quell'attentato fortunatamente non c'era un bus con dei ragazzini che potevano saltare in aria e lui se ne è fregato altamente. Che dica chi gli ha dato l'ordine di fare quell'attentato, perché secondo me ancora ci sono altri responsabili che devono pagare e lui ne ha conoscenza. Che lo dica. Secondo lei che con Giovanni Falcone braccio a braccio ha condiviso tanti, tanti momenti, che cosa avrebbe pensato e detto il giudice Falcone anche di questo dibattito a proposito di una possibile scarcerazione di Riina? Non avrebbe mai accettato una cosa del genere, perché è vergognoso. Dopo tante indagini, dopo tante morti, ma poi pensi un po', quest'uomo era latitante per 24 anni a casa sua. E vede forse anche in questo un tassello di quelle spinte verso una revisione del 41 bis che erano anche scritti in quel famoso papello, che è uno degli elementi anche dei processi sulla trattativa Stato-mafia dietro quella stagione? Secondo me, e ripeto, ci sono altri responsabili e che devono essere individuati. I famosi mandanti occulti o il terzo livello di cui parlava Giovanni Falcone. Ma guardi, non si tratta soltanto di questo. Noi ritorniamo indietro nel 1983, quando hanno fatto saltare in aria il consigliere Rocco Chinnici. C'è molta attenzione, si sta facendo tanto clamore per liberare una persona che ha ucciso, mentre c'è stato tanto silenzio per chi è rimasto in vita. Quali sono stati gli ultimi ricordi che lei ha prima dell'attentatuni? Diceva che lui è arrivato a casa, avrebbe proseguito perché aveva un incontro con altri magistrati e quindi mi invitava ad accompagnare la moglie a casa. Poi c'è stato il fatto delle chiavi, che gli ho chiesto, arrivato a casa mi dà le mie chiavi, ma lui istintivamente ha spento la macchina porgendomi le chiavi. E io lo richiamai, gli ho detto: ma che fa, così ci andiamo a ammazzare? E lui, girandosi verso di me, annuì e mi fa: scusi. Queste sono le ultime parole che ricordo di Giovanni Falcone. Sappiamo che quel giorno volle guidare lui. Quella è probabilmente, o forse sicuramente, la ragione per cui lei oggi è ancora qui, è ancora in vita. La moglie, Francesca Morvillo, scendendo dall'aereo, si è seduta davanti. E lui, per non mettersi dietro, si è seduto alla guida e quindi mi sono seduto io dietro. A quel punto si parlava di cosa si stava avvenendo a Palermo, mi ha chiesto se la macchina era pronta. La macchina quale? È una macchina sua personale che io gli avevo fatto preparare per portarsela a Roma, perché a Roma camminava senza scorta. Gli spostamenti del giudice Falcone dovevano restare coperti da segreto, compresi gli spostamenti da Roma a Palermo. Immagino che in questi 25 anni a lei più che a chiunque altro siano, come dire, ritornate nella mente ogni fotogramma di quei giorni, di quei momenti, alla ricerca anche di queste, di possibili appigli per queste spiegazioni. Lui, quando si spostava, mi chiamava a casa e quella mattina mi chiamò alle 7 di mattina, comunicandomi il suo arrivo. Il mio compito era quello di allertare la scorta e questo ho fatto. Come io la scorta l'ho allertata in mattinata, l'attentato è stato preparato prima, quindi evidentemente c'è qualcuno ha comunicato. Che la settimana prima dell'attentato, scendendo dal suo aereo, mi diceva: queste sono le sue parole, è fatta, io sarò il procuratore nazionale antimafia. Pertanto ci organizzeremo a Palermo come ufficio, non ci muoveremo più con la macchina ma con un piccolo elicottero chiamato Moschito, e mi invitava a sostenere esami per prendermi quel brevetto. Io ritengo che l'uccisione del dottor Giovanni Falcone sia dovuta alla sua nuova carica, perché lui avrebbe ripreso quelle indagini che sono state interrotte quando subentrò il consigliere Meli, che di fatto ha smantellato il pool. La legge non prevede un diritto a morire fuori dal carcere e di sicuro la legge prevede innanzitutto l'obbligo di garantire la sicurezza di tutti gli altri, delle vittime, cioè di quel detenuto, e del resto della società. Ma non sarebbe più forte uno Stato che lascia ad un vecchio malato la possibilità di morire non da solo, in cella, e questo al di là del suo cognome? La sentenza della Cassazione ha riaperto anche questa discussione che fa arrabbiare e a volte indignare tanti. E da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Storiacce. La Corte Costituzionale tedesca ha detto che è prevalente rispetto al potere di punire dello Stato e ovviamente è molto forte, però io penso che far morire una persona vicino ai propri cari o comunque dargli questa possibilità significa dimostrare di essere uno Stato molto, ma molto forte, molto più forte che non uno Stato che si accanisce fino all'ultimo secondo. La pensate così anche voi? Uno Stato che concede ad un detenuto, anziano e malato, di uscire dalla cella è più forte di uno che lo lascia in carcere fino alla fine dei suoi giorni? Di questo stiamo parlando in questa puntata di Storiacce. Le stesse ragioni che hanno portato la Commissione parlamentare antimafia ad andare fisicamente nell'ospedale di Parma, dove è ricoverato Riina, e stabilire che lì potrebbe essere curato anche meglio che a casa, come ha specificato la presidente Rosi Bindi. Irina si trova dunque in una condizione di cura e assistenza continue che a dir poco sono identiche, se non superiori, a quelle che potrebbe godere in uno status libertatis o in regime di arresti domiciliari, e di cui gli è ampiamente assicurato il diritto, innanzitutto ad una vita dignitosa e dunque a morire quando ciò avverrà, altrettanto dignitosamente. Ma la questione non è solo la cura medica, quanto la possibilità di morire fuori dalla cella e non in solitudine. Certo, lo ammetto, parlare di questo genere di sentimenti e anche di una umana pietas per il più spietato dei boss, per colui che non ebbe alcuna remora a dichiarare guerra allo Stato e ai suoi servitori, a far uccidere decine e decine di persone, donne e bambini compresi, umanamente fa quasi impressione. Sembra stridere con le sensazioni che ciascuno di noi prova, ammettiamolo, ma le leggi non si fanno con le emozioni e le leggi comunque valgono per tutti allo stesso modo. Ma voi sapete quanti sono gli ergastolani in Italia al di là di Riina? Più di quanto non si pensi e più di quanto non pensino tutti quelli che ripetono che in Italia nessuno mai va in carcere e soprattutto nessuno mai ci resta. Una realtà che è ben monitorata dall'associazione Antigone. Patrizio Gonnella. Gli ergastolani sono circa 1600. Quando si dice in Italia che l'ergastolo non esiste, non è vero. Sono 1600, di cui più di 1000 sono in una condizione di ergastolo senza prospettiva di rilascio, si chiama tecnicamente ergastolo stativo. Per tutti questi esiste il problema di dove andare a morire. E la questione Riina ha sollevato un tema più grosso rispetto a quello di Totorina stesso, ovvero se è legittima la pena a vita o se invece almeno in prossimità della morte non si possa pensare ad una condizione finale più dignitosa, che è quella che per esempio tutti possono immaginarsi quando hanno una persona moribonda, anziana o non anziana, vicina. Non è una questione di salute, hanno ragione coloro che dicono che probabilmente è curato molto bene, che quindi non è questo il tema è, al di là di Riina, ma per tutti, per esempio la possibilità di avere a fianco, se c'è un figlio per tutto il tempo che ovviamente è necessario. Ecco, ma la legge dà spazio a tutto questo, anche se la legge non prevede un diritto a morire fuori dal carcere. La legge non lo prevede, però la giurisprudenza, in questo caso la Cassazione, dicono che se c'è una richiesta in questo senso, i giudici non possono non tenerne conto. E anche gli avvocati vedono effetti positivi nel dibattito aperto dalla Cassazione sul caso Riina, mentre criticano, e non poco, un aspetto introdotto dalla riforma del processo penale che tiene a distanza difensore e detenuto e ci fa tornare indietro nel tempo, avverte il presidente dei penalisti, Beniamino Migliucci. La Cassazione, anche in questo caso, ha affermato dei principi giuridici corretti. E cioè è giusto che venga valutato quando si chiede un differimento della pena per ragioni di salute, sia quali siano le condizioni attuali ed effettive del detenuto, sia il grado di pericolosità che egli ha, ma nell'attualità. Questi sono principi che sono alla base del nostro ordinamento penitenziario, anche della nostra Costituzione. E quindi io credo che sia corretto sempre cercare una persona nel momento in cui viene fatta questa valutazione sia pericolosa o meno, che sia corretto e giusto che qualsiasi individuo, qualsiasi detenuto a qualsiasi detenuto debba essere riconosciuto il diritto a una morte dignitosa, perché altrimenti la pena si trasforma in vendetta. Ora, noi abbiamo delle regole e le regole devono essere, io credo, seguite, e in questo caso la Cassazione, anche se ha fatto scalpore perché si trattava di Salvatore Riina, non ha fatto altro che applicare dei principi giuridici che dovrebbero essere condivisi, io credo, da tutti. Cioè non è che la Cassazione ha creato delle norme che non esistono, ha applicato delle norme che esistono. Semmai c'è da dire che qualche volta non vengono applicate in modo corretto. Facciamo un po' di chiarezza su questo aspetto. Diciamo che le leggi italiane non stabiliscono, non c'è da nessuna parte, il diritto a morire fuori dal carcere, per chiunque sia, giusto? No, c'è una valutazione che ogni tribunale di sorveglianza deve fare, perché se le condizioni di salute sono incompatibili con il carcere, non si deve stare più in carcere. E questo la legge lo stabilisce. È una valutazione, peraltro, che il tribunale di sorveglianza deve fare di volta in volta. Questi differimenti vengono concessi sempre quando c'è una condizione di grave infermità fisica, e viene anche accertato che la persona che viene valutato, se posto in una condizione di cura migliore, per esempio di detenzione domiciliare o di detenzione in una struttura ospedaliera diversa dal carcere, non possa essere pericoloso per la collettività. Credo che le valutazioni dei tribunali di sorveglianza siano molto rigorose, anzi delle volte in qualche caso abbiamo dovuto lamentare che non si è fatto un buon uso, nel senso che molto spesso anche per sotto la spinta delle emotività o dell'opinione pubblica ci sono stati dei casi in cui c'erano delle persone che avrebbero meritato di non rimanere in carcere per le loro condizioni di salute, perché addirittura in qualche caso c'erano delle persone ormai ridotte a dei vegetali, malati di tumore, di Alzheimer o quant'altro. Io credo che in quei casi avrebbero dovuto essere aperte le porte del carcere, ma non per un atto di pietà, è perché le nostre regole lo impongono. Lei fa riferimento anche a Provenzano? Anche, ma non solo. Sul diritto alla morte dignitosa e ad uscire dal carcere si confrontavano già gli antichi, come ci raccontano, come sempre a questo punto, le nostre mitiche storiacce, nella voce di Giorgio Geranò, professore all'Università di Trento e autore di un nuovo saggio sulla mitologia classica, Demoni, mostri e prodigi, l'irrazionale e il fantastico nel mondo antico, edito da Sonsogno. Mitiche storiacce. Fosse vissuto ai tempi dei Romani, Totò Riina, come qualsiasi altro condannato per omicidio, non sarebbe andato all'ergastolo. Magari l'avrebbero mandato a morte o in miniera o l'avrebbero esiliato, ma un carcere a vita in cui spegnersi da vecchio non sarebbe stato previsto. Le carceri romane non erano certo luoghi di divertimento, alcuni scrittori, specie cristiani, ce ne hanno lasciato descrizioni orrende, ma il carcere serviva innanzitutto per il detenuto in attesa di processo. Scriveva il giurista Ulpiano, il carcere serve per tenere sotto controllo le persone, non per punirle. C'è da dire che gli antichi, oltre che alla giustizia umana, credevano a quella divina. Dove non arrivavano gli uomini, arrivavano gli dèi. Era un luogo comune l'idea che la giustizia divina potesse colpire anche a distanza di anni. Era lenta, ma sicura e implacabile, e nessuno sarebbe scampato. Magari da vecchio, ma la pena lo avrebbe raggiunto. Non bastava comunque essere vecchi e malati, si poteva essere puniti, anche se già morti. Ad Atene, Frinico, un nemico della democrazia, un golpista oligarchico del V secolo a.C., fu disseppellito, processato e condannato da morto. Le sue ossa riesumate e buttate fuori dal territorio di Atene. Secoli dopo, la stessa sorte toccò peraltro al ghibellino Farinata degli Uberti, ben noto ai lettori di Dante, dissotterrato e processato dai Guelfi quasi 20 anni dopo la sua morte. La clemenza da sempre è una virtù o un privilegio dei principi. Le città spesso non se la possono permettere. E voi cosa ne pensate? Esiste secondo voi un diritto anche per un detenuto come Totò Riina a morire fuori dalla cella? Se vi va, scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce oppure su Twitter all'account Raf Calandra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Ciao a tutti, da Raffaella Calandra.